da quale parte c'è un limite a tutto, e certi tipi sono un terno all'otto, da quale parte li mettono in Parlamento, mentre dovrebbero stare dentro. Da quale parte si vuole il bene comune? Da quale parte si pensa solo a sputare? Da quale parte si combatte la mafia? Da quale parte sanno solo calunniare? Per vedere le stelle del cielo bisogna uscire la notte in giardino. Per capire dove soffia il vento bisogna stare ad ascoltare il mondo. Per sapere quando c'è temporale devi sentire i lampi tuonare. Per sapere se domani c'è il sole basta uno sguardo e il cielo vedere. Ehi! Da quale parte stanno solo scappando? Da ogni futuro, dalla faccia del mondo? Da quale parte stanno solo bruciando la dignità con tutto quello che vanno dicendo? Da quale parte stanno solo rubando il nostro futuro e sputano fango? Da quale parte sta il cambiamento? Il nuovo sole che illumina il campo. Per vedere le stelle del cielo bisogna uscire la notte in giardino. Per capire dove soffia il vento bisogna stare ad ascoltare il mondo. Per sapere quando c'è temporale devi sentire i lampi tuonare. Per sapere se domani c'è il sole basta uno sguardo e il cielo vedere. Vedevo da quale parte stanno tutti cercando di ridare un senso al senso? Da quale parte vanno invece dicendo che siamo tutti uguali, tutti ladri in fondo? Da quale parte stanno massacrando ogni giustizia, ogni sacro secondo? Da quale parte sanno solo mentire e anche l'asino fanno volare? Per vedere le stelle del cielo bisogna uscire la notte in giardino. Per capire dove soffia il vento bisogna stare ad ascoltare il mondo. Per sapere quando c'è temporale devi sentire i lampi tuonare. Per sapere se domani c'è il sole basta uno sguardo e il cielo vedere. Per vedere le stelle del cielo bisogna uscire la notte in giardino. Per capire dove soffia il vento bisogna stare ad ascoltare il mondo. Per sapere quando c'è temporale devi sentire i lampi tuonare. Per sapere se domani c'è il sole basta uno sguardo e il cielo vedere.